Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Napolitano si dovrebbe dimettere, dovrebbe costituirsi. Sì, però ci saranno insomma le elezioni per il Presidente della Repubblica. Il Presidente, bisogna che ci sia un Presidente che non agevoli e non firmi qualsiasi cosa, mi firma e non mi spezzo, insomma firmato qualsiasi cosa. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il pensiero di Grillo oggi in una lunga conferenza stampa proprio di Napolitano, che ha confermato le sue dimissioni, dice non dovrebbe dimettersi, dovrebbe costituirsi, e mi pare che Napolitano comunque abbia confermato che è imminente questo abbandono del suo ruolo, visto che siamo al bis. Sentiamo. La prossima fine di questo anno 2014 e l'imminente conclusione del mio mandato presidenziale inevitabilmente ci portano a svolgere alcune considerazioni sul periodo complesso e travagliato che stanno attraversando l'Italia, l'Europa e il mondo. E anche Napolitano l'abbiamo sentito, parleremo naturalmente di questo, di politica e poi del vertice a Bruxelles, il vertice europeo, che è l'ultimo con la presidenza italiana, perché il semestre di presidenza italiana finisce proprio adesso con la conclusione del mese di dicembre. E poi c'è il lutto per la morte di Virna Lisi, c'è anche una dichiarazione di Napolitano e poi di molti altri, visto che era una delle più grandi attrici, forse una delle ultime rimaste italiane e anche molto amata. Renderemo un omaggio anche a lei. Intanto vi racconto come sempre la giornata. Quirinale, Napolitano conferma la fine imminente del suo mandato e Grillo attacca, dovrebbe costituirsi. Semestre europeo a Bruxelles, l'ultimo vertice sotto la presidenza italiana dell'Unione. In primo piano investimenti e Ucraina. Omicidio Garofalo, la Cassazione conferma definitivamente i 4 ergastoli, tra questi anche l'ex compagno della vittima. Gli eccidi dell'ISIS, uccise in Iraq 150 donne, avevano rifiutato le nozze con gli integralisti islamici. Pena di morte, cresce il consenso mondiale per abolirla. La risoluzione per fermare i boia nel mondo ha avuto all'ONU 117 voti. La sentenza della Corte europea, un ovulo umano non fecondato è brevettabile, apertura per un uso a fini industriali. Addio a Virna Lisi, l'antidiva che disse no a Hollywood, smentì lo stereotipo della bionda svampita e arrendevole. E per il calcio si gioca questa sera l'anticipo della 16ª giornata di Serie A. Juventus in campo a Cagliari, il Napoli ospita il Parma. E così quindi, come le voci che ho fatto sentire all'inizio, partiamo dalla successione al Quirinale. Da un po' di tempo ne parliamo, no? È iniziata questa corsa per designare il successore di Napolitano, il quale oggi ha confermato, come dicevo, le sue imminenti dimissioni. Si rivolge al corpo diplomatico per gli auguri natalizi, il capo dello Stato, e per la prima volta parla apertamente di dimissioni che lo stesso Napolitano definisce imminenti. La prossima fine di questo anno 2014 e l'imminente conclusione del mio mandato presidenziale inevitabilmente ci portano a svolgere alcune considerazioni sul periodo complesso e travagliato che stanno attraversando l'Italia, l'Europa e il mondo. La data delle dimissioni si collocherebbe a metà gennaio, dopo il 13 giorno di chiusura del semestre europeo a guida italiana. Non ci sarà alcun problema per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, fa sapere allora Renzi. Credo, dice il Presidente del Consiglio, che il Parlamento abbia imparato la lezione dell'aprile 2013. Critico Brunetta, Forza Italia, che chiede invece che il Capo dello Stato sia più chiaro sui tempi delle sue dimissioni. Altro capitolo, quello delle riforme. Il Presidente della Repubblica loda il governo Renzi, impegnato secondo Napolitano in un coraggioso sforzo per eliminare alcuni nodi e correggere mali antichi che hanno frenato lo sviluppo del paese, un processo riformatore che non può essere fermato, commenta la presidente della Camera Boldrini. Tutte le forze politiche si sono impegnate in campagna elettorale per le riforme. Tregua infine sulla legge elettorale tra PD e Forza Italia, sui tempi c'è intesa per chiudere prima dell'elezione del nuovo capo dello Stato, dice il ministro delle riforme Boschi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, come avete sentito, Grillo attacca il Presidente della Repubblica e si dice disponibile a scelte condivise su personalità che però vengano al di fuori della politica. Lo ha precisato durante una conferenza stampa a Fiume davanti alla stampa estera, e quindi sentiamo un passaggio. Noi abbiamo io la mia opinione personale, anche quella del movimento, è che dobbiamo trovare una persona che ha delle gravissime responsabilità di questo paese. E ha firmato qualsiasi cosa. Ha firmato la legge Fornero, ha firmato lo scudo fiscale, ha firmato qualsiasi cosa. Ha appoggiato, si è messo nell'ombra con due persone a inventarsi le larghe intese, si è raddoppiato la carriera, è andato fuori secondo noi, secondo i nostri esperti, da quello che era la Costituzione italiana, non rappresenta più gli italiani, rappresenta una fetta di un partito messo lì per tutelare. Ora il prossimo, noi volevamo trovare una persona che sia completamente al di fuori della politica, che sia al di fuori dei partiti, che abbia una personalità riconosciuta abbastanza. E su questo naturalmente sapete inizia il toto presidente, perché ormai è davvero questione di meno di un mese, più o meno quelle dovrebbero essere le date, metà gennaio. Quindi se volete fare anche voi il toto presidente, il Fatto Quotidiano ieri o l'altro ieri parlava di due possibili candidati, Padoan, il ministro dell'economia, o l'ex ministra della giustizia Severino. Se volete scatenarvi anche voi c'è il 349-238-6666, il numero per i messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, dove vi ho lanciato anche un altro tema se volete. E oggi comunque il presidente del Consiglio Renzi da Bruxelles, dove sta partecipando al Consiglio europeo, l'ultimo che dicevo cade sotto il semestre di presidenza italiana, ha ostentato comunque tranquillità. I temi in primo piano, vi dicevo, di questo vertice sono l'economia, le questioni economiche e l'Ucraina. Poi però ci colleghiamo direttamente con Bruxelles per approfondire questo tema. Nel frattempo, proprio sul fronte della crisi ucraina, sono arrivate oggi le parole del presidente russo Putin durante la conferenza stampa di fine anno. Cosa ha detto Putin? Ha detto che il muro di Berlino è crollato, ma si costruiscono nuovi muri nonostante i nostri tentativi, dice, di collaborare. Il leader del Cremlino ha affermato che i nostri partner si credono un impero, ci vogliono vassalli, e poi ha respinto le accuse di alimentare una nuova guerra fredda. E rimaniamo sulle notizie dall'estero. In Iraq, questa notizia gravissima, oltre 150 donne irachene sono state uccise dall'ISIS, da integralisti islamici dell'ISIS, per aver rifiutato di sposare jihadisti dell'autoproclamatosi Stato Islamico. Lo afferma il Ministero per i diritti umani di Baghdad, citato dalla televisione panaraba Al-Arabiya, aggiungendo che la strage è avvenuta a Fallujah e che tra le vittime c'erano molte donne incinte. In India, la leader italo-indiana Sonia Gandhi, presidente del partito dell'opposizione del Congresso, è stata ricoverata oggi in un ospedale di Nuova Delhi per un'infezione polmonare, non si hanno altri dettagli. E adesso torniamo a occuparci del disgelo tra Stati Uniti e Cuba. Ruolo determinante è stato quello del Vaticano, sia dell'attuale pontefice Papa Francesco, sia di Papa Wojtyla, che visitò Cuba. Portavoce storico di Giovanni Paolo II è Joaquin Navarro Valls, che ebbe un ruolo molto significativo nel permettere quel viaggio nel gennaio del 1998. Tutto cominciò da lì e ha raccolto i ricordi più significativi di Navarro Valls la nostra Katia Caramelli. Mi ricordo in una conversazione personale, privata, da soli, completamente da soli, senza segretari, niente, con Castro, una delle cose che le ho chiesto era, prima della visita del Papa, che lui restaurasse nel calendario di Cuba la festa del Natale, che era stata cancellata dagli anni 60. No? Dopo un po' di conversazione lui mi ha detto: guardi, lo facciamo quest'anno per la visita del Papa. Io gli ho risposto: presidente, vediamo, facciamolo per quest'anno e poi vediamo. Da quella data in realtà il Natale è diventato festivo, giorno festivo nel calendario di Cuba. Sembra quasi una cosa piccola, ma è molto significativa. Poi le prime parole del Papa arrivando all'aeroporto della Habana, che oggi, dopo quello che è successo ieri, acquisiscono un significato particolare. Che Cuba si apra al mondo e che il mondo si apra a Cuba. Era un modo molto esplicito di dire ai cubani: dovete aprirci al mondo, cioè stabilire rapporti con tutte le nazioni, e anche agli altri paesi, compresi gli Stati Uniti, dovete avere dei rapporti con Cuba. Quelle parole sono quelle che oggi storicamente stiamo vedendo che si sono compiute. Quindi un bel percorso, anche se adesso il presidente Obama si trova un po' l'ostacolo dei repubblicani al Congresso, al Parlamento americano. E tra l'altro Papa Bergoglio, che si fa notare spesso per un po' il suo stile informale, si è saputo oggi che tra la prima e la seconda puntata di Benigni su 10 comandamenti lo ha chiamato per complimentarsi con lui. Occupiamoci anche di pena di morte, perché cresce il consenso mondiale per la moratoria sulla pena di morte. La risoluzione per fermare il boia nel mondo ha avuto 117 voti, cioè 117 nazioni hanno votato in Assemblea Generale, 6 in più che a novembre in terza commissione. No, sono stati 38 e 34 le astensioni. E torniamo sulle notizie italiane. Questa sera in Senato sarà presentato il maxi emendamento alla manovra, alla legge di stabilità, poi sarà posta la questione di fiducia e cercheremo di capire più tardi. Intanto probabilmente si protrarrà a lungo questo voto, cercheremo di capire quali sono i contenuti ultimi più o meno di questa manovra. Sulla cronaca, l'omicidio Garofalo sono definitive le condanne per l'omicidio della testimone di giustizia Lea Garofalo. La Cassazione ha confermato i 4 ergastoli e la condanna a 25 anni emessi dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano il 25 maggio del 2013 a carico dei 5 imputati, tra cui l'ex compagno di Lea Garofalo, che è Carlo Cosco. Lea Garofalo, testimone di giustizia, venne uccisa barbaramente a Milano il 24 novembre 2009. I pochi resti della donna sono stati rinvenuti in un campo in Brianza, dentro un tombino, 3 anni dopo la sua scomparsa. E ancora sulla cronaca, col delitto di Ragusa, i funerali oggi del piccolo Loris. Un lunghissimo applauso ha accompagnato la piccola bara bianca fuori dalla chiesa di San Giovanni Battista Santa Croce Camerina, dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali di Loris Tival 20 giorni dopo la sua morte, su cui ancora si sta indagando. I bambini hanno lasciato volare nel cielo palloncini bianchi a cui erano state legate grandi foto del compagno di classe che non rivedranno più. A celebrare l'esequie il vescovo di Ragusa, Paolo Urso. Come si può uccidere un bambino, ha detto nell'omelia, solo un folle, un pericoloso folle può compiere un tale gesto, un folle che deve essere fermato. A salutare Loris circa 2000 persone. Per più di mezz'ora in chiesa sono stati lasciati entrare solo i parenti e gli amici stretti. Solo in seguito, spostate le transenne, sono stati fatti passare anche alcuni dei cittadini. Fuori invece, per tutta la cerimonia, i giornalisti con telecamere e microfoni. Assente la madre, Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlio e detenuta nel carcere di Catania. Il suo avvocato non ha neanche provato a fare richiesta perché la donna potesse partecipare ai funerali per motivi di opportunità. Lei invece avrebbe voluto esserci, continua a proclamare innocente e a nome suo ha mandato una corona di fiori a forma di cuore. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'addio a Virna Lisi, un'attrice che ricorderemo, e non solo, naturalmente, per la sua grande bellezza. Non si era mai ripresa dalla scomparsa del marito Franco Pesci l'anno scorso. Era stato questo grande amore, durato 53 anni, a segnare la vita di Virna Lisi, forse ancor più della sua carriera cinematografica. Una carriera da 6 nastri d'argento, 2 David di Donatello, un premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes. Ma proprio per amore aveva rinunciato a Hollywood. Nella seconda metà degli anni 60 si era trasferita col marito e il figlio Corrado a Los Angeles, ma aveva deciso poi di tornare in Italia. Una filmografia vastissima, ma anche tanti ruoli molto amati dal pubblico televisivo. Di sé raccontava: vorrei anche ruoli da cattiva, ma la gente mi vuole bene e mi vuol vedere buona. Sono attratta da personaggi che sono un po' fuori da quello che il pubblico vuole vedere, e cioè una Lisi sempre buona, una Lisi brava moglie, brava madre, brava nonna. Io qualche volta mi piace anche interpretare dei personaggi da cattiva, però poi quando incontro la gente per la strada mi dice: oh, signora Lisi, no, lei non deve fare quei personaggi, lei è buona, lei c'è una specie di ribellione. La sua ultima interpretazione nel film Latin Lover di Cristina Comencini uscirà postuma nel marzo prossimo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo sulla scienza, il dibattito tra scienza e etica, con la sentenza della Corte Europea che ha deciso che è brevettabile l'ovulo umano non fecondato, e ce lo spiega un po' il senso di questo il genetista Edoardo Boncinelli al microfono di Adriana Fracchia. Questa sentenza prevede che mentre l'ovulo di per sé, cioè la cellula uovo femminile, non è brevettabile, né è brevettabile un ovulo che sta procedendo verso la creazione di un individuo, un ovulo che è attivo ma che non porterà a nessun individuo è brevettabile. Si prenderanno cellule da questi pseudoembrioni e si studieranno per studiare i meccanismi che portano le cellule staminali. Da un punto di vista etico ha dei risvolti? Dal punto di vista etico non ci dovrebbero essere problemi. Dal punto di vista industriale si può discutere se questo sia un prodotto naturale o un prodotto artificiale. Ormai la Corte ha stabilito che è artificiale e quindi è brevettabile. Una grande cosa, e io già in passato mi chiedevo perché non si faceva. Se da questo studio si capisse bene che cos'è una cellula staminale e che cosa la fa trasformare, sarebbe un grande evento. E ora la missione Rosetta, che è al primo posto, pensate, fra le scoperte del 2014, no? La navicella che ha rincorso la cometa e ha staccato un pezzo che poi la studierà. Sorprese quindi della cometa arrivano con questo strumento italiano sulla sonda, che fornisce un primo identikit ad alta definizione della cometa, e come vi dicevo la rivista Scientific Nature e anche Science incoronano la missione dell'ESA come il top 10 delle scoperte scientifiche. Per il calcio, Juventus e Napoli, che sono in campo nell'anticipo anticipo della 16ª di Serie A in vista della finale di Supercoppa, per la quale poi si affronteranno lunedì in Qatar. Vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ve li do subito in diretta. Napoli-Parma 0-0, Cagliari-Juventus 3-1 per la Juventus. Europa 24 notte. Subito lo spazio europeo oggi, perché vi dicevo di questo vertice che è l'ultimo con la presidenza italiana. Al centro del programma ci sono la famosa crescita di cui si continua a parlare e la crisi ucraina. Il presidente della Commissione Juncker oggi, in una intervista a Sky TG24, ha detto: credo che in questo semestre l'Europa abbia cambiato testa, al posto di concentrarci eccessivamente sul consolidamento dei conti, quindi il rigorismo che resta comunque fondamentale, abbiamo saputo dimostrare che gli investimenti erano altrettanto importanti. E poi ha aggiunto: vedo con piacere simpatia l'azione del governo Renzi, che ha cambiato le cose in Italia e che ha contribuito a cambiare le cose in Europa. Confermi Sergio Nava, inviato a Bruxelles? Ciao, sì, ciao Roberta, ciao ad ascoltatori. Sì, questo ha detto il Presidente della Commissione Juncker in un'intervista che ha rilasciato a Sky TG24 e che sostanzialmente è abbastanza, tra virgolette, al miele verso l'Italia, anche perché appunto dà fiducia all'Italia, anche se su uno dei punti più fondamentali per l'Italia, quello dello scorporo dal calcolo del deficit dei cofinanziamenti dei progetti legati ai fondi strutturali, cioè qui i progetti che vengono realizzati sul territorio italiano attraverso i fondi europei, beh, lì ha detto: stiamo a vedere, dobbiamo fare una comunicazione sulla flessibilità, a gennaio ne saprete più. C'è un'opposizione tedesca su questo, però vabbè, non entriamo troppo nei dettagli. La cosa interessante è che il vertice, a sorpresa, sarebbe finendo già stasera, anzi stanotte, quindi con un giorno di anticipo rispetto al previsto. Questa è, a memoria, è la prima volta che accade in un vertice ordinario. Hanno fretta o hanno già concluso quello di cui dovevano parlare? Sono arrivati a delle conclusioni. È un cambio di stile a 180 gradi che ha impresso il neopresidente Tusk, neopresidente del Consiglio europeo, che condivide con Juncker una certa sinteticità, mentre i predecessori, Van Rompuy e Barroso, sostanzialmente riempivano un'agenda di punti e i programmi di punti, loro sembrano volersi concentrare su pochi concreti punti su cui trovare conclusioni. E cioè, a questo proposito vi facciamo ascoltare subito l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con il sottosegretario degli affari europei Sandro Gozzi, che riassume un po', ovviamente poi vedremo cosa si dirà anche in conferenza stampa, però riassume dal punto di vista ovviamente italiano come è andata la discussione sul famoso piano Juncker. Sentiamo cosa ci ha detto Gozzi. È andata bene, è stato un passaggio importante perché c'è stata un'approvazione politica da parte del Consiglio europeo della proposta di Juncker e anche della proposta di Juncker di valutare in maniera favorevole gli eventuali contributi nazionali al piano, così come è stato molto positivo la possibilità di per i progetti del ciclo 2007-2013 di continuare ad essere finanziati nel ciclo 2014-2020. Quindi direi chiariamolo, ecco, i progetti finanziati ai fondi strutturali non completati potranno andare nei prossimi 7 anni. Potranno continuare a essere pagati nel periodo 2014-2020. Quindi c'è una risposta strategica importante, il piano Juncker, e c'è una risposta anche operativa immediata che è legata alla possibilità di continuare a finanziare con i nuovi fondi 2014-2020 progetti già concepiti ma non completamente realizzati. Queste sono due risposte importanti, concrete, e che fanno parte di quella politica degli investimenti. Questo quindi Sandro Gozzi, sottosegretario al Consiglio con delega alle questioni europee, no Sergio? Che riassumeva un po'. Ci sono due, purtroppo probabilmente è saltata una parte finale dell'intervista nella quale Gozzi sostanzialmente diceva che invece per quanto riguarda i contributi nazionali al piano Juncker bisogna aspettare almeno 2 o 3 mesi, perché prima bisogna capire come funzionerà questo piano, questo fondo per la crescita e l'investimento. Tra l'altro, scusa Sergio, diciamo per i profani, me compresa, no? Juncker dice c'è questo piano in cui ogni Stato mette miliardi di investimenti dalle proprie risorse, ma se poi l'Italia che esempio sta come sta, no? I paesi che non hanno delle finanze particolarmente sane, come possono trovare giovamento nel dare dei soldi nel momento in cui ne hanno bisogno, detto proprio così banalmente? dice, su questo la Commissione europea è venuta incontro all'Italia perché intende considerare come neutrali gli investimenti nazionali, cioè se l'Italia mette, poniamo 20, 30, 40 miliardi, non lo so perché lo stesso Conte ha detto che al momento non danno nessun tipo di cifre, però ipotizziamo metta 40 miliardi, questi 40 miliardi o 10 miliardi o 5 miliardi non vengono calcolati quando poi si deve calcolare il rapporto deficit-PIL, cioè non rischiamo di un'infrazione perché non vengono tecnicamente calcolati all'interno del rapporto deficit-PIL, vengono considerati neutrali. Bisogna vedere poi se si è già sforata la quota del rapporto deficit-PIL, a quel punto come si vengono calcolati questi fondi, ma andiamo un po' troppo nei tecnicismi, però insomma non ci fanno aprire una procedura di infrazione se sono questi miliardi a farci sforare. Questo poi la cosa interessante, diceva Gozzi, che poi ovviamente andrà anche un po' verificata, però è questo il fatto che i progetti legati ai fondi strutturali, che noi abbiamo speso sempre molto male negli anni passati e solo con gli ultimi governi abbiamo cominciato a fare un discorso serio di utilizzo di questi fondi per far progredire, modernizzare il paese, ebbene, poiché siamo sempre in ritardo, siamo storicamente in ritardo, abbiamo un tasso di assorbimento del 60%, ma eravamo al 40% fino a pochi anni fa, quelli che in qualche modo quei progetti, i fondi strutturali europei che non sono stati, che non vengono completati entro l'anno prossimo, quelli relativi alla programmazione precedente, ebbene, potranno essere reinseriti e quindi non si perderanno soldi, denaro europeo, nella prossima programmazione, che è la famosa programmazione europea 2014-2020. Quindi in soldoni non andremo, se questo concetto è passato, a perdere soldi europei che avremmo perso l'anno prossimo perché non eravamo riusciti a completare il tempo i progetti. Questa è un'altra notizia interessante che riguarda da vicino effettivamente il nostro paese e anche la modernizzazione del nostro paese. Vogliamo sentire anche cosa ha detto Renzi, Sergio, oggi, un passaggio di quello che ha detto a Bruxelles. Pare che il passo in avanti ci sia stato, il piano Juncker va nella direzione nostra, va nella direzione di considerare gli investimenti fatti con il piano Juncker fuori dai confini del patto di stabilità, però finché non vediamo la conclusione dei lavori non siamo in grado di dirlo, quindi di questo parliamo nel pomeriggio. E nel pomeriggio poi naturalmente ne hanno parlato, abbiamo sentito Gozzi. Quindi Sergio, visto che sta volgendo al termine questo vertice, in conclusione, in sintesi, come è andato? Proprio con due parole. Dovremo ovviamente assistere alla conferenza stampa finale, che è quella un po' tra virgolette più neutra, perché finora abbiamo avuto solo una versione italiana, che tendenzialmente le versioni nazionali sono sempre favorevoli e positive, quindi aspettiamo di vedere. Bisognerà capire, c'è anche la questione ucraina, non abbiamo parlato, bisogna capire innanzitutto se l'Europa farà fronte comune, riuscirà a trovare un fronte comune sul problema dell'Ucraina, dei rapporti con la Russia, anche quello è molto interessante, non abbiamo avuto tempo di approfondirlo, ma stiamo a vedere. Sulla parte invece del piano di investimenti, sulla parte economica, sicuramente è un fatto positivo che si parta. Però vediamo che poi una volta che i regolamenti, che le procedure nei prossimi due mesi saranno affrontate dalla Commissione europea, vediamo poi quanti soldi entrano in questo fondo Juncker, perché al momento gli stati nazionali hanno un po' il braccino corto, hanno anche ragione perché dicono voglio capire un po', prima vedo il regolamento e poi ci metto prima cammello e poi i soldi, però bisogna riempito questo fondo di progetti e di soldi. I progetti ci sono pensate 2.000 progetti candidati per 1.300 miliardi di euro, una cifra enorme, un numero enorme, però a questo punto servono i soldi e una progettualità definita con procedure chiare, solo così l'Europa effettivamente potrà fare un salto. Grazie Sergio Nava da Bruxelles. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Ciao Chicco Padula. Ciao, buonasera. Buonasera a te. Hai l'arduo compito di spiegarci tra poco proprio arduo. La legge di stabilità e la manovra, se ne sente continuamente parlare, no? Finché non è votata definitivamente, finché non è varata. Però hai sentito poco fa questo aggiornamento che davo anch'io in diretta del fatto che sia slittato domani, no? Il voto di fiducia. Sì, diciamo, questa è stata una sorpresa di pochi minuti fa, insomma di una mezz'oretta fa. Noi eravamo qui tutti pronti, aspettavamo il voto del Senato, poi il voto finale sarà alla Camera diciamo tra domenica e lunedì. Aspettavamo stasera in nottata il voto finale del Senato, invece ci sono stati alcuni problemi, c'è stato uno slittamento a domani mattina l'aula del Senato torna a riunirsi, il governo deve ancora presentare questo maxi emendamento, quindi diciamo queste correzioni al testo approvato in precedenza dalla Camera, e insomma non devo dirsi la verità, non è chiarissimo. Vogliamo sentire però Salvatore, Chico, vogliamo sentire una scheda almeno sui contenuti che dovrebbero essere in questa legge di stabilità, e poi spieghiamo anche che cosa significa, quali possono essere poi le ripercussioni, che cosa potrebbe essere cambiato, cosa ci potrebbe essere in questo maxi emendamento. Sentiamo. Nessun aumento delle tasse per la casa, sterilizzazione dell'aumento IRAP per i piccoli imprenditori senza dipendenti, meno tagli ai patronati, 1 miliardo alle regioni per l'allentamento del patto di stabilità. Sono diverse le novità introdotte nella legge di stabilità, fra le più importanti appunto il credito d'imposta IRAP. Ai lavoratori senza dipendenti spetterà un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP, calcolata al 3,9%, una misura che costerà 163 milioni. Stop all'aumento di IMU e TASI anche nel 2015, le aliquote massime restano quelle dell'anno scorso. Disposto un tetto al canone RAI che non potrà essere più alto di quello del 2014. Sui patronati arriva un ulteriore alleggerimento dei sacrifici. I tagli al fondo dedicato dovrebbero scendere di nuovo a 35 milioni. I titolari di partita IVA con redditi da lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto al reddito di lavoro autonomo saranno esclusi dal nuovo regime forfettario se la somma dei redditi totali supera i 20.000 euro. Con giochi e scommesse si punta a far cassa con una previsione di entrate pari a 730 milioni di euro. Infine arriva l'Election Day a maggio per le elezioni amministrative e regionali. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa è la sintesi, Chico Badone, un sacco di roba dentro, no? Sì, un sacco di roba, ti interrompo perché questo è un sacco di roba e ovviamente tutte cose giustissime, ma dobbiamo ricordare un'altra cosa, che comunque la legge di stabilità, cioè, contiene altre misure di cui non si sta parlando in questi momenti perché non vengono modificati, quindi sono rimaste quelle presentate. Prima di disvelarcele tu, sì, Chico Badula, sì, spieghiamo, siamo anche un po' didascalici, non, sì, non importa a volte anche ripetersi, diciamo che cos'è una legge di stabilità, una manovra, perché è così importante? Ma la legge di stabilità è la vecchia legge finanziaria, cioè quel documento legislativo, una norma, legge, che diciamo serve consente allo Stato di gestire durante tutto l'anno le proprie entrate e le proprie uscite, quindi è diciamo la legge che consente allo Stato di funzionare. Senza questa legge di stabilità lo Stato non può funzionare, quindi è importantissimo che venga approvata entro la fine dell'anno, perché dal 1 gennaio poi si applicheranno tutte le previsioni contenute nella legge di stabilità e nella legge di bilancio che l'accompagna. Quindi una volta stabilito ancora una volta cos'è la legge di stabilità, ora tra le cose, le misure che tu dicevi non sono state qui ricordate perché non sono state modificate, ce le rammenti tu? Beh, diciamo forse la più nota, la più importante, il famoso bonus degli 80 euro, cioè la legge di stabilità serve anche tra le altre cose a stabilire che nel 2015 ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra i 24 e i 26 mila euro, adesso le cifre esatte non me le ricordo, però più o meno il range è quello lì, riceveranno questi 80 euro aggiuntivi come diciamo bonus, credito d'imposta, credito da parte del governo. È la legge di stabilità, al suo interno ad esempio prevede anche la possibilità che i lavoratori possano chiedere l'anticipo del TFR in busta paga, cosa di cui abbiamo pure parlato molto, oppure prevede ancora che nel 2015 le imprese possano assumere dipendenti senza pagare i contributi, sgravio contributivo fino a 8.000 euro all'anno, oppure ancora prevede il taglio di tutta l'IRAP che grava sul costo del lavoro, quindi le imprese che hanno molti dipendenti avranno diciamo, un beneficio significativo che arriva proprio con l'approvazione della legge di stabilità. Queste diciamo le cose, sì, principali. Le cose principali. Il tutto dovrebbe già prendere forma diciamo domani, perché ci dovrebbe essere questo voto, sì, di fiducia alla presentazione di questo maxi emendamento. Poi dicevi voto finale avverrà tra il fine settimana e lunedì? Sì, il voto finale dovrebbe avvenire, quindi il testo torna alla Camera dei Deputati e il voto finale avverrà presumibilmente tra domenica sera e lunedì mattina. Ancora il calendario non è stato fatto, però insomma si immagina che quindi per il giorno 22 sarà sicuramente approvata definitivamente la legge di stabilità. Dopodiché per un po' saremo liberi di non parlarne più? No, poi invece ne parleremo in continuazione, perché come dicevo prima, dal 1 gennaio praticamente tutte le previsioni della legge di stabilità verranno concretamente applicate e quindi avremo modo di parlarne molto durante tutto l'anno. E allora ci sentiamo molto presto, Chico Badula, speravamo di esserci liberati di questa incombenza, non di parlare di tema, ma di parlare di legge di stabilità. Grazie Chico, buon lavoro. Grazie, buonasera, ciao. E intanto leggevo ancora le vostre candidature. Sandro che dice, no, questo l'avevo già letto, Papa for President. Aldo invece dice Presidente Oscar Giannino, quindi una stima particolare per Oscar. Roma, Giuliano da Roma cita Roberta Pinotti per Presidente, l'attuale Ministra della Difesa. Un altro ascoltatore, Rosi Bindi al Colle, Antonio Di Pietro Primo Ministro, questo è un mio desiderio, dice un ascoltatore o un'attrice che non si firma. Invece un altro, propongo a Presidente della Repubblica la senatrice a vita Elena Cattani. È Virgilio, ecco, si firma Virgilio, Elena Cattaneo, ricercatrice scienziata. Mirka dice che io, Roberta, lei è troppo giovane, perciò ripiego su Rosi Bindi o Anna Finocchiaro, grazie, molto lusinghiero. Lucio da Vicenza dice non si realizzerà mai, ma il mio candidato per il Colle sarebbe un cittadino vero, normale, sano e onesto. Stefano Fioretti vorrebbe il Quirinale Guido Bertolaso, che al momento non mi sembra proprio, diciamo così, in una condizione trasparente da poter ambire. E poi Emma Bonino for President, qualcuno ritorna a ricordare che Emma Bonino tante volte, no, si cita quando c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, ma finora non ce l'ha mai fatta. E poi altri messaggi, sia al 349-238-6666, sia potete continuare naturalmente a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E adesso parliamo di Virna Lisi, che era un volto tra i più conosciuti del cinema italiano, che aveva attraversato, che ha attraversato generazioni, perché bisogna dire che ha avuto, forse non so se l'attrice che ha avuto la più lunga longevità, la maggior longevità professionale, dico, come attrice, sapete, scomparsa a 78 anni, oggi nella sua casa a Roma, dopo aver scoperto solo un mese fa che aveva un male incurabile. Nella sua carriera ha ricevuto 6 Nastri d'Argento, un premio per la migliore interpretazione femminile a Cannes, 4 David di Donatello, di cui 2 alla carriera. Era anche commendatore o commendatrice, diremo, dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quindi insomma un sacco di riconoscimenti. E vogliamo sentire come aveva quasi esordito, non era stato proprio il suo esordio, però tanti la ricordano, l'hanno ricordata oggi anche in televisione con quel famoso spot, quella pubblicità di Carosello. Insomma, secondo lei essere brutte è un bel malanno? Sì, la bruttezza è un malanno che forma l'infelicità di una donna, ma la gioia di tutte le altre. Ma signora Lisi, cosa dice? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire ciò che vuole. Ecco, con quella bocca può dire ciò che vuole. Mi pare che poi l'avesse detto lei di Renzi, che oggi l'ha ricordata in quel modo. Giancarlo Governi. Ciao Giancarlo. Sì, buonasera, buonasera. Scrittore, giornalista. Posso fare un piccolo appunto, sì, alla mia collega? Senz'altro. Cioè, non esiste un male incurabile. Non usiamo mai più questa parola, perché il cancro si cura e si guarisce di cancro. In moltissimi casi, certo, in moltissimi casi. Ma è un male grave, diciamo un'altra cosa, insomma. Nel suo caso probabilmente era incurabile. Sì, vabbè, però insomma, parlando del cancro è bene dire che... Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te, Giancarlo. Adesso parliamo di Virna Lisi. Parliamo di Virna Lisi, dicevo, Giancarlo Governi, che è scrittore, giornalista, regista, autore televisivo, una lunghissima carriera in Rai, e ha creato un genere con un'antologia dedicata ai grandi del cinema, dello spettacolo italiano e stranieri. Quindi chi meglio di te, Giancarlo, ci può ricordare Virna Lisi e anche spiegarci come mai ha avuto questa lunghissima carriera, anche diciamo quando non era più giovanissima, anche molto di recente. Guarda, lei credo che sia un caso mirabile e forse unico di una grande attrice che ha saputo invecchiarsi. che ha saputo accompagnare la sua età, il suo invecchiamento. Innanzitutto è una che non si è mai fatta una piccola cosa, nemmeno immagino una punturina di botulino come oramai fanno quasi tutte le donne. Ma probabilmente è anche stata fortunata in questo, perché anche a 78 anni era bellissima. Sì, ma lei invecchiando diventava sempre più una, prima era una bellissima ragazza, poi era una bellissima donna matura, poi è diventata una bellissima signora, poi è diventata una bella signora anziana e alla fine era diventata una bellissima vecchia. Cioè lei più invecchiava e più diventava bella, cioè diventava sempre più brava e sempre più bella. Lei è una che, se tu pensi che ci sono state tante attrici di cui non faccio il nome, no, che rifiutavano addirittura, magari attrici importanti, no, rifiutavano addirittura di fare le mamme, lei ha fatto le nonne, non solo le mamme, le nonne. Stavo vedendo questo film bellissimo su Rai Movie, là dove ti porta il cuore, no? Sì, sì. Anzi, le facciamo sentire tra poco anche uno spezzone. Dove lei fa una nonna straordinaria. Avevo una classe, tra l'altro, non ha mai avuto paura di invecchiare, perché lei sapeva, forse si rendeva conto che una donna può essere bella in qualsiasi momento della sua vita, anche a 90 anni. Io ho avuto la fortuna di conoscere, di intervistarla, Rita Levi Montalcini. Madonna, ma aveva quasi 100 anni, ma era di una bellezza incredibile. È un merito interiore, ma anche una fortuna genetica esteriore, questo, perché veramente Virnalisi, tutti si chiedevano, è possibile non fare nessun ritocco? È bellissima a quest'età, come non era cascante come può succedere a tante donne che ugualmente devono accettare con tranquillità, insomma, gli anni che passano, però ognuna poi decide di per sé. Giancarlo Governi, io allora, visto che l'hai citato dal libro di Susanna Tamaro, Vado dove ti porta il cuore, sentiamolo un piccolo passaggio. Questa lettera avrei dovuto scriverla a tua madre, invece l'ho scritta a te. Se non l'avessi scritta per niente, allora sì che la mia vita sarebbe stata un fallimento. Per errori naturale. Andarsene senza averli compresi vanifica il senso di una vita. E adesso, pecorella mia, dove sei? Sei laggiù mentre scrivo tra i coyote e i cactus? Quando starei leggendo, con ogni probabilità sarei qui e le mie cose saranno già in soffitta. Le mie parole ti avranno portato in salvo? Non ho questa presunzione. Vorrei solo ti avessero aiutato a non sprecare la tua vita. Abbi cura di te. Ogni volta che ti sentirai smarrita, confusa, e davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso. Ma siediti, aspetta. Respira senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. In silenzio ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. E questa è Virnalisi che interpreta la nonna, appunto, in Va dove ti porta il cuore. Giancarlo Governi, allora, lei ha avuto una lunghissima carriera cinema, soprattutto TV, che ha amato moltissimo. Questo amore è stato ricambiato naturalmente dal pubblico. Ma è vero che lei rifiutò poi di rimanere più di tanto a Hollywood per amore, o invece sì, perché era un mondo che non le apparteneva, quello? No, non per amore, perché il marito l'aveva seguita. Infatti. Il marito e il figlio l'avevano seguita a Hollywood, no? Dove lei aveva avuto un contratto favoloso per 7 anni, no? E dove veniva strapagata. E dopo 3 anni lei preferì pagare una penale di quelle pesantissime pur di liberarsi e pur di ritornare in Italia, perché gli facevano fare un cinema che lei non sentiva, non gli apparteneva. Cioè, avevano pensato che lei potesse diventare una nuova Marilyn Monroe. Una nuova Marilyn Monroe. No, e poi tra l'altro anche pensare che Marilyn Monroe fosse una pupattola, no? una bambolina così, sciocchina e svampita. Sciocchina e svampita, secondo me, è già un affronto a quella che è stata, secondo me, non soltanto una delle più belle donne del mondo, ma forse anche una delle più grandi attrici del mondo, no? come è stata Sophia Loren, perché lei era una svampita, ma era una donna, cioè recitava la parte della svampita con grande forza, tra l'altro con grande maestria, no? ma era, lei recitava quella parte lì, non era, gli si fa torto insomma a dire questa cosa. Era tutt'altra cosa. A un certo punto lei si rese conto che volevano in lei quello che lei non era, e lei preferì pagare questa cosa, ma non per amore, perché il marito, perché tutta la famiglia, cioè il marito e il figlio, un figlioletto piccolo, si trasferì a Los Angeles per 3 anni. Infatti io ricordavo questa cosa, poi ho sentito invece per amore, mi sembrava strano, perché proprio non era il suo mondo evidentemente quello, e non erano le parti che lei amava. Invece dicevamo, quindi cinema in Italia, lei ha iniziato la sua carriera a fine degli anni 50. Guarda, lei è una cosa, poi tra l'altro lei ha fatto 80 film, però ha fatto anche, non l'ho contati adesso sapendo che non avreste chiamato, e ha fatto addirittura anche 38 fiction. 38 fiction significa che poi ogni fiction è più di una puntata, no? E quindi praticamente se si conta in ore, le fiction saranno 150 ore, contro 80 film. Quindi lei si è distribuita equamente fra il cinema e la televisione. E anche questo è un fatto, cioè denota intelligenza, cioè perché c'è stato un periodo in cui le grandi attrici e i grandi attori si rifiutavano di fare la televisione, no? E lei invece non si è rifiutata mai, lei ha alternato, lei faceva un film con il grande il Signore e Signori, no? E poi passava e faceva una fiction, non aveva questi timori. Non lo snobbava, ha fatto veramente tantissima televisione, adesso su Rai 1 stanno passando una delle tante serie. Giancarlo Governi, andrei avanti a lungo, ma ci dobbiamo fermare qui, ti ringrazio moltissimo Giancarlo. Va bene, grazie. Grazie, spero presto. Grazie per la possibilità di parlare di questa grande donna. Grazie a te. Ciao. Giancarlo.